perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Alino, buongiorno. Ora al Milan ti hanno messo Gattuso. Dai, spera, che a questo punto puoi andare anche te ad allenare il Milan. Milan 1, Veronica 0. Praticamente l'unico posto dove il Milan vince. Mi riferisco ad Alessandra e Veronica. Siete un po' troppo nervosetti. Ale, Veronica, siete bellissimi quando litigate. Fatelo più spesso. Buongiorno a tutti, cari ascoltatori. Come va, Veronica? Bene, mio caro. Tu come stai? Benissimo. Tutto mi a fa posto. Piacere. A casa tutto bene? A casa tutto bene, grazie. Purtroppo un po' di pioggia stamane nel venire qui al lavoro, ma... E che sarà mai un po' di pioggia? No, tu sei abituato, ami la pioggia. Sei abituato perché stai dicendo perché sono di Milano? Vuoi subito metterla come polemica su Milano? Stai cercando zizzania perché ti hanno detto che siamo molto molto Stiamo sexy scherzando. Quando litighiamo? No, non ha detto sexy, parla per te. Allora, le 9:09, cari ascoltatori, vedi subito come si distorce con le fake news l'informazione. È così, è un attimo, è quello, il gioco del telefono, te lo ricordi? Sì, esatto, che dice una cosa e ne arriva un'altra. Alle 9:09 in punto, qui i funamboli sono tornati. Ben ritrovati anche da Alessandro Milan. Lo dico giusto per ironizzare sul cognome, che poi la gente dice Gattuso, ma lasciate. Ben lasciate, ritrovati lasciate anche lavorare. Da Alessandro Milan, che vorrà dire? Non lo so, è come Radio Londra. Era una specie di tic linguistico che ti ha preso a metà trasmissione. Ben ritrovati da Alessandro Milan, siamo in onda da un'ora. Ale, da no? Radio Londra, da Radio Londra era. Felice non è felice. Allora, signori, siamo qui. Volete mandare le vostre sigle? Come si fa? Si mandano al 349-238-6666. Ottimo. Allora, oggi mi ha colpito molto e molti giornali giustamente titolano su questo tema che è molto vasto. Quando lo si toccano sensibilità diverse, Veronica, te lo dico subito, perché quando l'Istat fa una fotografia e dice che ci siamo persi, nel senso che non si fanno più figli, 100.000 neonati dal 2008 al 2016, per la verità sì. 107.142, se vogliamo proprio dire. Insomma, è un paese che non fa figli, è un paese dove i figli non sono facili da fare, ma proprio non è un paese per figliare. Non è un paese per figliare. E perché, cari ascoltatori? Ditecelo. È questa la domanda, nel senso che ci sono tutte le cause più comuni che si vengono esposte ogni volta, legate chiaramente a tutte le difficoltà oggettive, alla politica che è assente nel cercare di supportare la maternità. Quindi chi sta al governo parla sempre di bonus bebè e si dice che non sono bastanti. L'opposizione dice no, serve un welfare che assista, nuove misure di un welfare importante che aiuti la maternità, però poi di fatto non succede niente, no, succede molto poco. Il bonus bebè non sarà mica quella la soluzione, per carità, può servire, ma se possono uno poi... essere dei piccoli palliativi, però poi anche il welfare ne parla sempre chi è all'opposizione, perché poi farlo strutturalmente è più complesso e non accade. Ma la domanda è: sono solo queste veramente le ragioni, oppure ce ne sono anche delle altre più così? Più assolute, più ancestrali. Allora, 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. Allora, ci sono alcune cifre, perché molti diranno non è obbligatorio fare un figlio, per molte è anche una scelta, e infatti per molte pare ci sono anche molte donne, cioè da chiedersi quanto poi sia cambiata anche la figura femminile, quanto il fare figli non sia più un valore assoluto o quanto invece però, attenzione, il numero che stavo per dire è questo. L'Istat ha fatto una fotografia precisa, e è vero, ci sono le donne che per scelta non fanno figli, ma secondo l'Istat sono il 2,8% delle persone intervistate, quindi è una percentuale non molto così bassa. Preponderante, cioè la maggior parte delle donne che non fanno figli, così dice l'Istat, è che a determinare questo aumento di quote di donne senza figli sono più gli ostacoli che si frappongono più che le scelte E allora vogliamo sapere quali sono gli ostacoli secondo voi, chiamateci. C'è anche da dire che si fanno sempre più tardi, e quindi quando si arriva a fare il primo molto tardi, intorno ai 32 anni, si dice molto tardi relativamente, però diventa più complesso poi rispetto alla fertilità, e soprattutto averne eventualmente un altro, quindi anche questo incide. Certo, molti non fanno figli perché poi non riescono. Comunque diteci la vostra, 800 24 00 24. Tra l'altro partiamo da qui perché la prima funambola che è con noi invece è una mamma che di figli ne ha due, e però anche per questo è successa una problematica. Alle 9:13, la prima funambola che è con noi, ci ha raggiunto, è Marika Ricutti. Buongiorno signora e grazie di essere qui a Radio 24. Buongiorno a voi. 17 sì. anni di lavoro all'IKEA, una multinazionale che molti conoscono, svedese, nello stabilimento in provincia di Milano, a Corsico. Esatto. È stata licenziata, è stata sollevata dagli incarichi. Allora, dobbiamo dire una cosa, che non vogliamo farci i fatti suoi, però dobbiamo spiegare la sua situazione familiare per far capire il contesto. Lei è separata, sì. ha due figli, di cui uno disabile. Tra l'altro gode anche della legge 104, quella che permette di stare 3 giorni a casa al mese. Esatto. Qual è la motivazione che ha portato l'azienda, poi ci dice la sua posizione, ma formalmente perché è stata licenziata? Formalmente sono stata licenziata perché a fronte di una loro richiesta di cambi turni, praticamente io non avrei rispettato la turnazione da loro voluta, nonostante più volte abbia chiesto comunque un confronto con l'azienda. Anche gli stessi sindacati che mi hanno appoggiato hanno chiesto più volte un confronto, perché questi orari che preventivamente mi era stato detto che non mi avrebbero fatto fare in quanto difficoltosi per la gestione cioè le 7 del mattino, spieghiamo, lei doveva iniziare alle 7 del mattino, e per lei era un problema nella situazione familiare che ho detto. Era un problema, ma in realtà io non mi sono mai rifiutata comunque. Infatti lei non ha opposto nessun problema quando le hanno chiesto di cambiare reparto, ha detto va bene. No, esatto, mi è stato proposto di cambiare reparto, ho fatto presente che comunque con una certa tipologia di orario per me sarebbe stato difficoltoso da mettere in atto, ma mi erano state date comunque delle rassicurazioni che mi sarebbero comunque venuti incontro. In ogni caso, io anche quando mi hanno presentato dei nuovi orari ero disponibile, come ho sempre fatto in 17 anni di lavoro, ho sempre fatto i turni, ho sempre lavorato, ho studiato, ho mantenuto i figli, quindi cioè sono sempre stata ben disposta a fare sacrifici nella vita. Ma tra l'altro, signora Marika, cui... vorrei se fermi un attimo, vorrei rispondere all'ascoltatore che, parlando tra l'altro del tema, noi abbiamo anche introdotto il tema, magari lei poi le chiederemo un parere sul perché non si fanno figli, lei che ne ha due. Un ascoltatore dice: ma come al solito prendete casi limite. Non ho capito cosa vuol dire. Noi raccontiamo qui ai funamboli l'Italia nelle mille sfaccettature, in questo caso tra l'altro la storia della signora Marika oggi è raccontata anche da Massimo Gramellini in prima pagina del Corriere della Sera. Insomma, è una storia di cui si è parlato molto. Forse lei non lo sa neanche, la informo che è in prima pagina del Corriere. Non penso di essere un caso limite, anzi, no, non lo è in affatto. Televisione, dappertutto, sulle radio se ne sentono tanti di casi simili, analoghi al mio, e arrivano da tante multinazionali ormai al giorno d'oggi, purtroppo. Ma lei dovrebbe godere della legge 104, no? Per prendersi cura del suo figlio più piccolo che ha una disabilità. Non è tutelata in alcun senso da quanto si è verificato con l'azienda per la questione degli orari? Ma questo è un argomento a parte. Ovviamente non sono stata licenziata perché usufruisco della legge 104. Che ripeto, permette di stare 3 giorni a casa, ma gli altri giorni deve fare i turni come tutti. Io ho chiesto solo di mettersi al tavolo e trovare comunque un accordo. Io ero disponibile in ogni caso a fare il turno delle 7, ma in giornate nelle quali riuscivo comunque, ecco, questo è un punto chiave, perché io faccio un po' anche, no? Faccio il cattivone, signora Marica, capisce? Quindi le faccio le domande è anche, il gioco delle parti, anche, lui fa quello no, cattivo. No, ma anche nel senso ciniche possono apparire. Molto spesso quando si lavora per turni uno dice ebbene, va bene, allora un dipendente, o meglio una dipendente che non è mamma per esempio, perché dovrebbe avere tutti i turni alle 5 del mattino, alle 6 del mattino, alle 11 di sera? Non è che essere mamma è una condizione, non essere mamma è una condizione che deve diventare uno svantaggio dal punto di vista lavorativo? Assolutamente no, assolutamente no. Ma io infatti non ho chiesto dei privilegi particolari rispetto ad altri. Ma se lei si fosse opposta... Io ho sempre fatto turni in chiusura. Io abito a 40 km di distanza dal mio posto di lavoro e facevo, perché ormai non lavoro più, turni anche fino alle 10, alle 10 e mezza. In passato ho fatto turni fino alle 11. Questo comporta che per me vuol dire arrivare a casa a mezzanotte, ma non mi sono mai opposta. Ma Marica, sostanzialmente, se lei avesse detto di no al cambio reparto, cioè se fosse rimasta al bistrò invece di passare al ristorante, mi sembra sia così, il problema degli orari non si sarebbe posto, quindi... No, perché in quel reparto, nello specifico, quel turno delle 7 non è... E quindi lei paradossalmente paga dazio per essere stata disponibile ad un cambio reparto. Sì, che peraltro mi hanno chiesto. Appunto. Non ho chiesto io. Per questo dico. Sì, diciamo che voglio dire, qui poi non abbiamo, a noi non è che non abbiamo la voce dell'IKEA, perché noi raccontiamo adesso la storia perché qualcuno dice: ma cosa dice l'azienda? Ma non dobbiamo fare un dibattito ogni volta. Se l'azienda vorrà spiegarci le sue ragioni, ma ci interessa capire. A livello generale, intanto, se dalla storia della signora Marica Ricutti si debbano trarre anche delle conclusioni generali. Ci sono state anche delle critiche, per esempio, anche su Facebook, per esempio, a dire non è un'azienda che deve in qualche modo sostituirsi ad eventuali falle anche di uno Stato, di una società che nella sua situazione come l'aiuta? Cioè le istituzioni, non so, il comune, c'è qualcuno che l'aiuta, che le consente di essere madre di due figli, separata tra l'altro, quindi in una situazione non agevole, e anche lavoratrice? Ma guardi, io qua forse mi ricollego un po' alla domanda che appunto facevate, come mai in Italia non si fanno più figli. Al di là dell'aspetto economico, perché i figli comportano comunque dei costi e gli stipendi al giorno d'oggi, ahimè, permettono di, in alcuni casi, non tutti, io forse fino a questo momento mi potevo ritenere fortunata di arrivare a fine mese, controllando comunque le spese, premetto. Certo. Lo Stato aiuta, insomma, per modo di dire, gli asili nidi costano tantissimo, se qualcuno non ha vicino dei nonni, dei parenti, degli amici, gli asili nidi costano, le babysitter costano. Questo è il punto, cioè al di là del bonus bebè. Da pagare, ma il bonus bebè, io adesso ho seguito un po' in questi giorni, mi sembra che abbiano, correggetemi se mi sbaglio, l'abbiano ridotto. Sì, l'hanno ridotto, ma al di là di questo, ma è un palliativo. Quando poi un asilo costa 500-600 euro al mese, ma soprattutto che non coinvolge coloro che hanno dei figli comunque che sono un costo importante e sono leggermente più grandi, e questo dal punto di vista proprio strutturale della gestione di una maternità e della crescita di un figlio non sono di aiuto in alcun modo. Io abito oltretutto, nel mio caso, ma ci sono tantissime altre situazioni analoghe alla mia, abito in un paese dove non esiste un pulmino scolastico che accompagna a scuola i figli, e quindi no, ma è chiaro, quindi diciamo è tutto il sistema, cioè se gli asili costassero un po' meno, se ci fosse un sistema di welfare anche a livello comunale, come lei ci dice, di aiuto, qualcuno che prende con la scuola bus e porta i bambini a scuola eccetera, è chiaro che questo agevolerebbe, le permetterebbe magari di fare anche il turno delle 7, le permetterebbe di mantenere il lavoro, ecco, è tutto un circolo virtuoso che a volte diventa vizioso e succede il disastro. No, io le volevo chiedere una cosa, Marica, che è forse uno degli aspetti invece più belli, se vogliamo, di questa vicenda, che c'è stata una grande solidarietà da parte dei suoi colleghi, per cui se questo aspetto l'aveva stupita, e se appunto Alessandro segnalava che magari un'altra collega che non ha figli può dire beh, ma perché devo fare io tutti i turni, sembra che invece la reazione dei suoi colleghi dello stabilimento di Corsico in questo caso sia stata molto diversa, molto vicina a lei. Sì, molto è molto sentita questa cosa, anche perché probabilmente un po' tutti si sentono un po' nelle mie stesse condizioni. Poi, ripeto, io erano 17 anni che lavoravo in quell'azienda e nello stesso stabilimento. La solidarietà è molto forte da parte di tutti, colleghi che mi conoscono, colleghi che non mi conoscono. Sto ricevendo molta solidarietà anche semplicemente sui social network da persone di tutta Italia che non conosco. Che non conosceva. Allora rimanga certo con noi, signora Marica, perché intanto ricordate, ascoltatori, 800 24 0024, se volete chiamarci, al di là del caso stiamo parlando del perché non si fanno figli, ma questo intreccia al mondo del lavoro. Vogliamo introdurre un altro lavoratore, anche se in realtà è un pensionato, ma ci ha colpito Veronica questa storia perché è il periodo di Natale, quindi se andate, non so, nei negozi, centri commerciali, poi si fanno meno figli, ma un po' di bimbi Natale ci sono. Esatto. E quindi... quindi i bambini amano vedere anche Babbo Natale in carne e ossa quando è rappresentato da alcuni... Talvolta c'è qualcuno che, oltre a quello che viene il 24 e viene per conto suo, poi ce n'è qualcuno che invece sta nei centri commerciali o si trova in altre situazioni. Perché è ubiquo, ecco, è ubiquo. No, ma perché è come se fosse un pre, no? È come se desse una mano a Babbo Natale nei giorni prima del Natale. Allora, salutiamo Carlo Capelli, 71 anni, si può dire l'età visto che non è una donna. Buongiorno signor Carlo, eccoci. Buongiorno. Pensionato di Zibello. Di Pieve Soville, dica che è meglio. Di dove? Di Zibello. Pieve. Ottoville. Pieve Ottoville. Siamo Zibello, va bene. Perché siete in Ottoville. Ottoville. Ma siete proprio Ottoville, cioè siete Pieve Ottoville, era il paese così. Pieve degli Altavilla era diventato Pieve Ottoville. Pieve Ottoville, va bene. Lavorerà come Babbo Natale, nel senso che ha vinto una selezione in cui si sono presentati in quanti? 500. 500. Oh. E lei ha vinto. Perché lei è stato scelto come Babbo Natale? Complimenti, Carlo! Perché lei è stato scelto? Penso per il primo perché ho una certa rassomiglianza. Si ricorda Babbo Natale, il miracolo 25esima strada? Mi scusi, sì, perché come no? A cavallo l'ultima sillaba con la prima, l'ho già detto anche. Comunque, in più, e poi dopo hanno fatto delle domande... Con un po' di fantasia c'è stato un bambino che mi ha chiesto: ma sei così grasso, come fai a scendere dai camini? Detto, chiudo gli occhi e uso la fantasia per scendere, come un palloncino. Questo non è male. E lui è rimasto, che bello. E poi mi ha fatto raccontare una fiaba, invece che raccontare le solite fiabe di Bancanero Cenerentola, ne ho inventato uno sul momento, ma così Un pochino ci racconti la sinossi di questa fiaba, non dico tutta, ma ci dica di cosa parlava almeno. Una macchina rotta che vede passare un Mercedes bellissimo e si innamora, allora va dal carrozziere a farsi aggiustare, e invece il Mercedes vede il Volkswagen rotto e va a sbattere contro il muro per andare anche lei, che invece così non si ritrova mai, insomma, è una conseguenza della vita. Ma che bello, storia romantica! Ma che bello. No, ma tra l'altro, lei, essendo stato scelto a fare Babbo Natale, percepirà per 9 giorni in costume, insomma, starà lì a dare caramelle ai bambini, eccetera, 1500 euro. Sì, oltre a quello, adesso però c'è stato che hanno sconvolto un po' la mia vita con le televisioni, perché prima è venuto dalla vostra parte, poi ancora. Poi anche questi rompe. Quindi si fa 9 giorni da Babbo Natale e poi comincia a fare la star televisiva, una carriera in TV. No, spero perché mi ha telefonato la mia ex moglie, che non devo parlare di lei. Benissimo, ci ho detto. Noi infatti non stiamo parlando della ex moglie. No, Babbo Natale ha un'ex moglie. Già la prima notizia l'abbiamo portata a casa. Cari bambini, potete. Sappiate che anche Babbo Natale può aver divorziato. Lo mettiamo nelle ipotesi. No, lo so, ma lei glielo chiediamo. Proprio l'ha fatto per arrotondare la pensione, proprio per lo stipendio, perché mi ha iscritto infatti l'impiegato della mia banca, perché ha visto che lei abita a Cremona e allora ha visto il mio conto corrente, mi ha detto: Carlo, ti iscrivo perché veri, poi così rientriamo un po' nel rosso, insomma, così. Ma che carino è stato, però giuro. Però il racconto, insomma, così potrà rientrare un po' del rosso. Ma certo, è così. È la vita, certo, è così. C'è bisogno. Ma Carlo, gli altri concorrenti che erano lì con lei, probabilmente magari ci avrà chiacchierato un po', erano persone che andavano per la stessa ragione, cioè tutte persone che avevano bisogno di arrotondare, o c'era anche qualcuno che lo faceva così per divertimento, sì, per fare un'esperienza diversa? Devo proprio raccontare. Allora, siamo andati in finale in cinque, no? Proprio che sì, i diretti dalla giuria. Tre erano disoccupati, chi faceva il pizzaiolo e roba, quelli lì che non so se li hai visti sul Corriere della Sera. Il solito che si introduce, che ha fatto il buono, faceva il buono con i bambini, faceva il buono, ha detto anche se vinco, perché dice che ha già fatto il Babbo Natale, io la prima volta, ha già fatto il Babbo Natale in case di riposo, in asili, e anche se avesse vinto avrebbe lasciato il posto al secondo, perché lui ha altri lavori. Ma lui ha detto, perché hai partecipato, se lasci il posto, ecco. Vabbè, non ha vinto. Si può, ma senza criticare, non ho fatto nomi, eh. Certo. È così però. Però insomma, tre disoccupati, questo a capire che anche... La maggior parte sì. Certo. Anche 1500 euro per 9 giorni, davvero stagionali, ecco, il lavoro più stagionale che c'è questo, perché 9 giorni quasi a Natale fanno comodo. Più del bagnino in spiaggia, sì. E poi proprio in questo periodo che c'è da fare regali, insomma, i nipoti, la magia, servono, sono veramente utili, ecco. Vabbè, signor... È stata la 13ª e adesso anche questo, speriamo che di sistemarci un pochettino, insomma. Senta Carlo, ma i nipoti sono pieni di favole che racconta il nonno, proprio pieni di storie. Sì, quella fantasia non manca. No, ma molto di più anche con la verità, con la realtà, Ma infatti mi sembra che la fantasia proprio non le manchi, questa storia che ci ha raccontato sui due piedi della Mercedes, questa, della Volkswagen. Anzi, forse potrebbe buttarla giù e scriverla, quello, meglio che andare in televisione in giro, forse no, quello infatti può essere un... Noi la ringraziamo, signor Carlo Capelli, perché ci ha raccontato questa storia che è un modo poi per raccimolare un po' di soldi, insomma, arrotondare la 13ª, questo è il... Carlo, ma le è arrivata la mia lettera? No. Adesso gliela mando allora, mi raccomando. Io la aspetto, e il caminetto è largo il mio, larghissimo. La letterina di Natale, pensavo la lettera d'amore, pensavo. No, una lettera quella d'amore poi dopo, ma prima facciamo quella di Natale e il cammino è largo. Ah, però che te serve, è riuscita a chiedere un regalo anche a Babbo Natale. Se non lo chiedo a lui, a chi lo devo chiedere? Scusami, un mostro vero. Signora Marica, per concludere, poi andiamo in pubblicità, perché ci sono tante anche telefonate sul tema dei figli. La sua situazione in questo momento è di donna licenziata, non ci sono possibilità, credo, cioè la vicenda, la sua storia professionale lì mi sembra chiusa. Al momento sì, poi ovviamente io sono seguita al momento dai sindacati che mi rappresentano e per vedremo come si evolverà la situazione. Chiaro, noi allora senza giudizi e senza le facciamo ovviamente tanto in bocca al lupo. Volendo aggiungere una malignità che ci viene segnalata da tanti ascoltatori, ma che segnalavano anche gli articoli di oggi, la Svezia è nota che insomma è la sede principale dell'IKEA, sì, per un welfare straordinario, quindi sì, insomma, un minimo di contraddizione c'è tra questa decisione. Sai, qui bisogna poi capire, perché il welfare non è che l'azienda debba sostituire le carenze di welfare di uno Stato. No, però l'azienda in questo caso adduce come motivazione Ale che sia venuto a mancare il rapporto di fiducia con il dipendente. Formalmente, se non rispetti gli orari di lavoro, come dire, è una delle cause di licenziamento. Però allora parto dall'assunto che non esista nessuna dialettica tra imprenditore e dipendente che esuli da quella che è una fiscalità dogmatica per alcuni versi ebete, cieca, ottusa. Questo è quello che ci ha raccontato Marica. Poi vedremo. I nostri ascoltatori, alcuni, ripeto, anche ieri sui social criticavano a dire, ma insomma, però se ci sono dei turni da rispettare, purtroppo anche con le difficoltà personali che uno ha, ci sono dei turni da rispettare. Comunque la pensiate, voi chiamateci all'800 24 0024, dobbiamo andare in pubblicità e poi tante telefonate sul tema perché non si fanno figli in Italia. E tra l'altro anche gli stranieri ne fanno meno, questa l'Istat l'ha accertato. Anche gli stranieri fanno meno figli in Italia. I funamboli. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Fanno più figli perché lo Stato non ti aiuta, costa troppo mantenerli. Ma vi chiedete anche come mai dal 2008 non si fanno figli? Mi sembra un po' strano. Anna, lavoratrice milanese, mamma di 4 figli. Un piccolo episodio: abbiamo tentato 2 anni fa di andare a vedere la mostra di Chagall a Palazzo Reale a Milano. 2 genitori e 4 figli, spendevamo più di un'intera scolaresca. Sarà una banalità, ma dice di quanto questo paese voglia i figli. A fine agosto è arrivato il nostro piccolo Marco e mia moglie, che ha partita IVA, sta già lavorando. Grazie a Dio ci sono i nonni. Grazie nonni. Questo grazie nonni lo dovrebbero dire veramente milioni di italiani. Il vero welfare statale sono i nonni, eh. L'abbiamo detto tante volte, no? Che poi se ne dica, uno cerca di creare il conflitto generazionale tra, per pagare le pensioni agli anziani, non si aiutano i giovani. Di fatto gli loro anziani aiutano. Sono già loro a tenere in piedi. Guarda quante ascoltatori e ascoltatrici ci sono, poi le abbiamo anche sentite, ma ci hanno anche chiamato. C'è Lucrezia, ci chiama da Roma. Buongiorno Lucrezia. Buongiorno, io vi chiamo per la mia testimonianza personale. Io mi reputo molto fortunata perché ho 3 figli e un lavoro a tempo indeterminato. Ho 3 figli di 3 età diverse, quindi vivo le problematiche di una mamma che cresce un figlio di quasi 20 anni, un figlio di quasi 11 e un figlio di quasi 4. E il figlio di quasi 20 anni l'ho avuto... Sì, l'ho avuto quando ero sola praticamente. Se non ci fossero stati i miei genitori, io non avrei potuto crescerlo, perché vivevo con loro e quindi il mio reddito si sommava al reddito dei miei genitori, quindi non avevo diritto alla scuola pubblica, all'asilo nido pubblico, quindi ho dovuto andare a lavorare per pagarmi l'asilo privato. Il secondo e il terzo figlio per fortuna li ho avuti in un'altra situazione, ma comunque anche lì non rientravo nelle graduatorie degli asili pubblici, quindi io lavoro per asili privati, babysitter, perché poi per ultimo pagare, figlio, mia mamma a 51 anni si è potuta permettere di andare in pensione per aiutare me. Perché insomma ovviamente... lei è un paradigma proprio della situazione, cioè nonni molto presenti, quindi genitori fortunatamente presenti, e, beh, non rientrare nei parametri vuol dire che comunque uno, per lei, insomma, rispetto ad altre situazioni è meno svantaggiata. Però deve andare ovviamente da istituti privati e quindi pagare rette molto alte per poter mantenere il lavoro. Quindi lei, Lucrezia, tutto sommato dice: io li ho fatti perché me lo potevo permettere, cioè lavorando, faticando, ma ho trovato un modo per poterlo fare, mentre in alcune situazioni secondo lei è proprio impossibile. È impossibile perché oggi che sono senza i nonni che mi aiutano e i figli accedono, perché più grandi, alle scuole pubbliche, vogliamo parlare della difficoltà di una mamma che lavora a star dietro agli orari della scuola pubblica, perché se uno fa il lavoro 9-18, che è il lavoro classico, come fa con lo sciopero, gli orari della scuola e il figlio che va alle medie e non può tornare a scuola da solo perché devi andarlo a riprendere? Lei ci sta raccontando la vita da funambolo. Ci sono anche i papà, adesso non vogliamo entrare nella vicenda personale di Lucrezia, ma in generale dico, nel senso, visto che vi battete tanto, Veronica, per la parità di genere, però ci sono invece anche questo, i papà. Stai toccando un aspetto interessante, che è anche quello, quando prima si parlava delle donne che non li vogliono, tu hai ragione che a livello di numeri sono molto basse, ma molte donne hanno anche difficoltà, infatti tante rispondono: aspetto di trovare l'uomo giusto, nel senso un uomo con cui condividere le responsabilità, perché in tutto questo molti messaggi parlano del problema di una donna che comunque ambirebbe anche a continuare ad avere una vita lavorativa viva, attiva, e che quindi è consapevole che la presenza di un figlio, con tutte quelle che sono le mancanze della società, e magari un padre che può essere più o meno presente, rischia di diventare veramente esiziale per qualunque tipo di percorso. Abbiamo fatto passi un po' in avanti, sull'emancipazione, e trovatevi degli uomini, e ce ne sono, che sono anche consapevoli della responsabilità di mettere al mondo un figlio e poi crescerlo. Sì, se questo ci sono... però la risposta, perché è più complesso, perché c'è anche vai a trovarlo con l'omicino, dici. C'è Giancarlo da Brescia, buongiorno, innanzitutto grazie per l'opportunità e massima solidarietà a Marica. Cioè la lavoratrice dell'IKEA dell'IKEA, dell'IKEA, per la verità. Allora io volevo fare un Con tutte situazioni condivisibilissime, quelle citate fino adesso, volevo fare un balzo indietro sul come le relazioni sono diventate un po' come le cose, cioè relazioni usa e getta. E in queste relazioni oggi usa e getta, dove si colloca il progetto di un figlio? Come si colloca il progetto di un figlio se stiamo trattando il rapporto uomo-donna come una cosa? La scelta che si fa quando si sta insieme è una scelta che tendenzialmente la si fa per dire sì per tutta la vita, e non sì per tutta la vita ci si mette un progetto importante come quello dei figli. Giancarlo, quindi ancora però, prima, insomma, di parlare di soldi, prima di parlare di soldi, l'approccio un prima po' di parlare come di dire soldi, pensiamo no, a un approccio un po' ecumenico se mi permette, no? No, cioè, che forse cosa c'entra l'idea di stare insieme per tutta la vita? O quello sì, fare un progetto, certo, fare un figlio non è come fare una torta, questo siamo d'accordo, però tutta la vita adesso addirittura. No, però diciamo che lo spunto che offre può essere quello di pensare che poi ci possono anche essere, quello che dicevamo prima, anche delle motivazioni che chiaramente vanno a braccetto con le problematiche economiche, ma che possono essere anche una sfiducia, per esempio, una generazionalmente i trentenni di oggi che magari fanno molta fatica a realizzare quelle che sono le loro ambizioni, a portare avanti il loro mestiere, hanno una componente ansiosa forte a pensare di mettere al mondo un bambino che si possa trovare nella stessa situazione, quindi anche questo può costituire. Hai capito? Io pure ho capito. Ci sono mille sfaccettature, ma questo approccio è di dire, Giancarlo, chiaramente noi possiamo, o una relazione o è per tutta la vita, se no uno non fa un figlio. Però dallo spunto di Giancarlo si sembra può pensare un po' da Don Giancarlo, con massimo rispetto, da Brescia, ecco. Proprio tu Don Milan parli? No, nel senso così. Comunque ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, ovviamente, per le loro posizioni che ci danno spunti anche di discussione. C'è Roberto da Roma. Roberto, sì, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Roberto. Dunque, condivido pienamente i due interventi precedenti, però volevo fare una osservazione. Mi sono sentito chiamato in causa perché io ho 40 anni, due figli, e sono molto fortunato per questo, però parlo più per tanti amici coetanei che non li hanno, e credo che ci sia stata una circostanza economica che si sia ripercossa su tutto quanto quello che è stato il percorso evolutivo di un ragazzo che oggi ha 40 anni come me, e cioè il coraggio di fare un figlio lo si può trovare soltanto quando si ha una autonomia economica, che purtroppo oggi è diventata molto complessa da raggiungere, e incide sulla coppia, incide anche su persone single che vogliono trovare un compagno o una compagna per fare famiglia. E faccio pure un riferimento che è un po' banale, però devo dire che l'ho vissuto sulla mia pelle. Il cambio dalla lira all'euro ha influito pesantemente, perché da che con dei punti di riferimento fermi, che erano quelli della lira, che avevi le 1.000 lire in tasca e sapevi che potevi comprarci un cappuccino, sì, oggi non avere un foglio di carta che equivale ad un euro, così come in America ad un dollaro, influisce pesantemente. Roberto, allora diciamo, lei ci dice che la questione economica è basilare. No, non entriamo nella discussione, quindi torniamo alla lira, l'euro. Diciamo che la certezza economica per fare figli, vari rami, no, che si aprono con questa discussione sui figli. No, ci scrive ovviamente Maura, mi dispiace che scriva così in maniera molto tranchant. Mamma disoccupata in Italia, o lavori o fai la mamma, non c'è scelta. Maura, fortunatamente e non sappiamo la sua storia, se arriva a scriverci così vuol dire che è una storia certo non felicissima, non è proprio così fortunatamente. Però Alessandro, non è solo Maura, perché scrivono anche un'altra donna scrive: non si fanno figli in Italia perché vuol dire precludersi un minimo di riconoscimento lavorativo. C'è anche questo, che dice addirittura, non la carriera, un minimo riconoscimento lavorativo, 10 anni di lavoro in nero per pagarsi l'università, 2 lauree in economia, 3 anni collaborazione con l'università, 7 anni in azienda. Ma la responsabile allora dice che non ho le competenze e comunque sono una mamma, quindi prendiamo, non mi devo aspettare niente. Se prendiamo, come dire, ogni storia presa singolarmente racconta uno spaccato di vita. Noi non è che possiamo esaminare le migliaia di storie diverse. Ci sono tantissime mamme, fortunatamente, che lavorano, che riescono, e riescono a conciliare. Però, quando noi vogliamo esaminare i dati dell'Istat di oggi, consideriamo anche quello che dicevamo in partenza. Cioè, se la donna oggi ha anche delle aspirazioni diverse a quelle precedenti, che appunto prevedevano lo stare a casa con i bimbi, punto, diventa molto più complesso conciliare le due realtà, perché ancora la società fatica ad adeguarsi a questo, oltre all'aspetto economico e ai non incentivi di nessun tipo. Leonardo Manera, che è arrivato qui, tiene una mano sulla fronte ed è molto appassionato, sì, di questi nostri discorsi. Questo dibattito l'ha folgorato? Lui che è mamma, si sa. No, io penso, al di là di quando ci sono i problemi economici, che comunque ci sono, che avere un figlio rappresenta... bisogna rinunciare a qualcosa quando si ha un figlio. Invece molti pensano di continuare a stare insieme non essendo una famiglia, ma essendo due persone singole che stanno insieme, e non si può comunque avere tutto. Io vedo che sono un padre separato e tante rinunce comunque le devo fare per stare vicino a mio figlio. Secondo me il problema è che tante persone pensano di non voler rinunciare a niente, invece quando hai un figlio a qualcosa necessariamente devi rinunciare. Io sono d'accordo con te, Leo, questo è un discorso che amplia la faccenda, quindi Milan non lo potrà sopportare, però no. Anche la volontà di sacrificarsi su alcune cose, neanche il traffico può sopportare. Io sul traffico, per ragioni proprio di vita che mi premono e non vorrei essere rinuncia per il traffico, il sacrificio lo faccio. Va bene, traffico. I funamboli. Mio figlio è nato in Germania, ci danno 200 euro al mese fino a quando ha 18 anni o fino a quando ha 25 anni se fa l'università. Capite un po' voi? Allora, il tema ha scaldato i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Bene, ovvio, è molto sentito. È la vita, figli, famiglia. Poi devi trovare la persona giusta alla quale dire ti amo. Non ma è si facile. Sa che l'amore, Manera, dipende cosa ti risponde l'altra persona. Tanto si sa che l'amore è destinato a finire sempre e dura comunque. Dura 3 anni perché poi non si produce più ossitocina, no? Sì, e poi finisce sempre e comunque. Allora, do velocemente un consiglio agli uomini. Se uomini dite ti amo a una donna e la donna si alza sulle punte dei piedi e ti dà un bacio travolgente, vuol dire che l'amore è corrisposta. Ah, vuol dire che è bassa. Se tu dici ti amo e lei in modo un po' così disinteressato dice anch'io, sembra una cosa che ti dice per educazione. Se tu dici ti amo e lei ti risponde bene, c'è da cominciare a preoccuparsi. A me è successo una volta. Oh. Ho detto ti amo e lei mi ha detto bene. Ma così, anche proprio così, ti ha guardato negli occhi e ti ha detto bene. Molto bene, va bene. Vabbè, dai, che ci vuoi dire? No, vi voglio dire che effettivamente poi vedendo la prima pagina del Corriere di oggi, per esempio, non c'è proprio da stare allegri, no? Perché appunto l'Italia non fa figli. Poi battute d'errori, le telefonate prima della valanga a Rigopiano, Salvini senza fine con quello che ha detto rispetto alla vita o fine vita. E a me invece ieri è capitato questo. Ligabue, no, cantava certe notti, ma a volte anche certe sere sono importanti senza che tu te l'aspetti e ti danno anche un po' di fiducia. Sono sere che dovresti tornare a casa perché sei stanco, perché hai mille cose da fare, perché voglio fare una doccia prima di buttarti sul divano a guardare le peggio cose in TV ricoperto da una copertina morbida. Invece decidi di non tornare a casa e fermarti a mangiare un panino in un bar del centro, ma in una via un po' defilata, solo, come un cane, contemporaneamente godendo e soffrendo della tua solitudine. E allora ti fermi fuori perché sai che a casa da mangiare è solo una fetta di salame andata male, che anche il gatto sarebbe dubbioso. Allora ti fermi in uno di quei locali che, anche se sei in centro, è sempre un po' come essere in periferia, perché la gente che li abita non è da centro, è da periferia. Col barista che è difficile da capire cosa dice perché ha i denti buttati a caso in bocca, 5 attaccati bene e poi 10 persi nei vicoli delle gengive. Dentro quei bar non ci trovi modelle o ragazzi palestrati coi tatuaggi e le sopracciglia depilate. Dentro c'è gente da periferia, anche se il bar è proprio dietro una di quelle vie centrali. Dentro ci trovi ragazze truccatissime, ma a cui manca poco per essere brutte. Uomini che parlano male coi congiuntivi come i denti, oppure che parlano benissimo e che hanno letto più di un libro. E poi tipi umani che dei libri non hanno letti neanche uno in tutta la vita, ma che hanno tutta la vita da raccontare anche meglio di un libro. Quasi nessuno sorridente, se non di quei sorrisi che hanno dentro la malinconia stampate in duplice copia. E in quel bar capita di incontrare una persona che conosci appena, però ti fermi a mangiare un panino con lui e bevendo un bicchiere di vino scopri di avere un sacco di cose in comune. E allora parli di Iannacci, del derby, addirittura degli anni 70, di quando si pensava di poter cambiare il mondo. Il mercato non si era ancora preso tutto e il Black Friday non aveva ancora sostituito ogni ideologia, ogni idea. Il panino che ho preso in quel locale era cipolla, prosciutto crudo e salsa. Non so quale salsa, salsa pesante comunque. Anzi, se non ricordo male, sul menù c'era proprio scritto cipolla, prosciutto e salsa pesante. Non era proprio leggerissimo, però mentre mangiavo quel panino e parlavo con quella persona pensavo che in fondo sono felice di vivere in Italia e a Milano per tanti motivi. Prima di tutto perché c'è ancora gente che ha voglia di fare qualcosa, di partire da un garage a fare musica o mettere su una piccola impresa, un'impresa piccola, perché si sa che in Italia tutto parte dal garage. E intanto gli occhi si illuminano anche se non sai se è per i progetti o per il bicchiere di vino. Poi, perché la nebbiolina autunnale, la foschia, dà voglia di intimità, di condivisione. E se stai in un posto dove c'è sempre il sole, balli, latinoamericano, ma la foschia è un'altra cosa. La foschia ti dà voglia di arrivare in primavera. La foschia è un progetto per il futuro. La foschia è vita. Infine, perché anche se si dice che l'Italia non ha più un'identità, secondo me invece un'identità ce l'ha. È quella dell'umidità, delle pianure dell'Emilia, delle spiagge calabresi dove il sole rosso di Induia annega nel mare, oppure di Milano con le canzoni di Walter Valdi, come il palo della banda dell'Ortica, cantata poi dai Annacci al derby di Viale Monterosa, proprio qui, di fronte a Radio 24. Alla fine torno a casa, mi sento un po' più milanese, un po' più italiano. E non importa se nella buca delle lettere trovo una minacciosa lettera di Equitalia. Giuro che ci penserò domani. Dai Veronica, urlalo anche tu, viva la foschia, anzi di più dice, dici viva la nebbia, dai. A me piace. Aspetta, la foschia. Che... Veronica, non impostare la voce, proprio no, ti deve venire istintivo, viva la nebbia. Dai, è facile, viva la nebbia, segui il labiale, viva la nebbia. La nebbia è bella, la foschia è bella. Sei una cialtrona. Ed è bella perché con la foschia rinunci al sole. La vita è rinuncia. Viva. La foschia è bella. Dai, lanciaci il giornale radio con un bel urlo al cielo. Viva la nebbia, dai, su. Viva la nebbia. Evviva, viva la nebbia. Evviva la foschia. Andate subito a fare un figlio durante la pubblicità. No, guardate, chiamateci. Il cielo fosco e riproducetevi. Chiamateci allo 800 24 00 24. Continueremo nella seconda ora insieme agli ospiti a raccontare le vostre storie. Diteci perché in Italia non si fanno figli. Donna, hai problemi di herpes labiale che si presenta regolarmente prima di ogni appuntamento importante? Allora non ricorrere a pomate e cerotti che hanno solo un effetto limitato. Acquista invece le labbra finte Bellugi, le labbra in similpelle da applicare sopra le tue e che donano anche una pronuncia esotica. Sì, da oggi anche io uso labbra finte Bellugi. Labbra finte Bellugi, perché l'amore viene prima dell'herpes. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finferno, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 9, su Radio 24. Ma la sensazione di finferlo. I funamboli. Meraviglioso Manera, solo io ti posso capire, sono nata a Milano e sono un po' di anni che vivo a Maranello, non vedo l'ora di tornare a Milano tutte le volte. Veronica, non tossire tanto, perché la nebbia è anche giù dalle parti di Roma, lo sai o no? Solo la nebbia, c'avete solo la nebbia, solo la nebbia, c'avete solo la nebbia. Senti da come ride, senti da come ride, ce n'è un altro, senti qua, oh, tutta contenta, senti, no, non ce n'è un altro. Ah, no. Il problema vero è che di nebbia a Milano non ce n'è più. Infatti, è scomparsa la nebbia. C'avete solo la nebbia, solo la nebbia. Guarda qua i nostri ascoltatori di Funamboli, c'è una grande sorpresa perché passava di qui Oscar Giannino, l'ho brancato, ha detto: Oscar, vieni a dirci perché hai fatto due figli tu. L'ho visto che compariva sul monitor. Ma io sono un grandissimo ascoltatore della vostra trasmissione, un grande ammiratore. vorrei contribuire in maniera anonima, lo farò. Oscar, che bello, no, che c'è bello. Un ricongiungimento familiare adesso con Milan. Sì, mettetevi perché, vicini, belli. Perché Alessandro lui non illuminato. È un immigrato, ma io di sicuro sono una specie di straniero. Allora. Questo non c'è dubbio. Sai gli stranieri, quelli che però si comprano e vendono per finta nelle partite dei giocatori, scusami, certo. Nelle squadre, poi finti valori patrimoniali. Io sono uno di quelli, cioè quelli che non giocano mai, ma stanno nelle rose. Quella roba lì. State notando come esula e come cerca di svicolare dalla domanda del perché ha fatto due figli. Oscar, come ti è venuto in mente di fare due figli? No, perché il punto vero è che mi pare è la voce femminile fantastica di questa trasmissione vi ha sottolineato che oltre alla faccenda economica c'è il punto, insomma, che qui gli uomini non riescono proprio a convincere le donne di questo paese, perché l'attesa del, ma insomma, io quello giusto, visti tutti i guai economici, il welfare, il lavoro e il fatto che è un paese costruito contro le donne e le famiglie eccetera eccetera, sì. Ma oltre a questo c'è una faccenda fondamentale. Noi lo convinciamo le donne, questo è il punto vero. Tant'è vero che io sono arrivato tardi. Dopo che non ne avevo convinte un mucchio. E questa dopo povera. Che non ne avevo convinte un mucchio. Esatto, questa è la verità. Cioè, perché io i figli volevo non prima. Ma avevano delle ragioni ogni volta che mi hanno portato a commettere tutta una serie di errori, ogni volta ripetuti. Ma gli errori non erano miei, erano loro, perché il loro giudizio insindacabile era: io dovrei far figlio con te. Più o meno questa. E quindi siamo arrivati tardi, ma solo grazie al fatto che mi è stato concesso questo giudizio di ultima istanza. Ma come hai fatto a convincerla? Ma mi sono appellato alla clemenza della corte, mi sono messo in ginocchio piangendo, dicendo: guarda, tu meriti di tutto, ma c'è un'unica questione, ormai il tempo, sono l'ultima risorsa del tempo, prendimi come uno che si butta via, ma facciamo dei figli. Questa è stata, io lo ammetto, qualunque mia testimonianza che sia del tipo: ma perché non poteva che aspettare me e farli con me, sarebbe una ridicola recita. No, però, adesso ex post, diciamo, sei contento di questi figli, hai dovuto tu e tua moglie sopportare tanti sacrifici oppure... Dunque, noi non abbiamo famiglia a sostegno, non abbiamo i nonni, non abbiamo questa integrazione, dobbiamo fare come tutti un mucchio di salti mortali, orari, cose eccetera, i sabati e domenica abbiamo annullato come tutti le uscite, i cinema, no, ovviamente è una... però in cambio io non ho cambiato idea, ho trovato per fortuna con la clemenza della corte, il mio giudizio tardi, dei figli, e io non ho cambiato idea. Vale quanti la pena? No, Oscar. 3 e 1 e mezzo. E ne vale, all'età mia dovrei avere i nipoti. Tra l'altro, prima prima abbiamo avuto un Babbo Natale pensionato che farà 9 giorni Babbo Natale. Voi non lo sapete, che era ascoltatore. Mi ha incuriosito molto, anche se immagino. Non dovevo dirlo. Eccoci. No, perché il Babbo Natale è un argomento di discussione all'interno della nostra famiglia. Che a casa Giannino forse arriva. Oscar, devi sapere che mi ha proposto di farti venire anche da me, l'ha proposto ieri al telefono, ha detto: ma se c'è bisogno c'è Oscar. Quest'anno c'è una soluzione diversa travestita, in realtà lo facciamo anche per sostenere una charity, io però ero dell'idea che, siccome i miei figli non ci credono a Babbo Natale, non ci credono, è più forte di loro, perché un anno e mezzo non ci può credere, perché cioè, diciamo che non ci credono, sanno perfettamente il meccanismo di ricatto attraverso il quale mandano la madre a qualunque giorno della notte a comprare i regali, anche la notte è successo, quindi figurati se lo fa. Non ci credo, allora perché bisogna fare la recita? Per vedere nei loro occhi, io li ho già visti, non lo credevo mai, il giudizio: ma perché abbiamo un papà e una mamma così cretini? Ma Oscar, hai mantenuto fede alle promesse? Voglio dire, adesso Margherita si è pentita amaramente oppure dice effettivamente un padre presente? Di me credo di sì, come uomo, ma come Oscar padre, ecco, lo so, infatti lo so che non c'è, non è una non notizia questo, ti ringrazio e ti abbraccio, però come padre spero di no. Come ti ricordo, cara Veronica, caro Leonardo, che quando Oscar ci raccontava sempre i santi, la santa che ricorre più spesso durante il calendario liturgico è Santa Margherita. Comunque, cioè, per esempio, successo ultimamente è cambiato il calendario. No, io lo dico, però, per esempio, il mio metodo per continuare a sbagliare la fiducia: c'è un conto per i soli figli, ma che è amministrato da mia moglie, e io fidarizio, ho detto: io non devo avere accesso. E io contribuisco regolarmente a quel conto. Sì. Quindi io dimostro che si può fidare, ecco, tutto qua. Però anche Oscar ha ribadito che coi figli qualche sacrificio bisogna fare, ma no, insomma, qualche rinuncia, qualche rinuncia. Chiunque dica il contrario o è un ricchissimo ma le affida alle tate, oppure vuol dire che non le ama. Rinuncia. No, anche perché anche se sei ricchissimo e le affidi alle tate, si suppone che un pochino se li fai tu voglia starci. Sì, ma no? Poi parliamoci chiaro, siamo in una, diciamo, in fascia, però insomma, per un bel po', tranne chi è particolarmente bravo, però ognuno può parlare delle sue esperienze. Parliamoci chiaro, qui non si fa più, cioè, non si fa più. Ma anche per anni a volte, decenni. Abbiamo smesso di fornicare. Scusate, Don Manera. Prima già abbiamo avuto Don Giancarlo da Brescia. No, adesso, sei tu Don Milan, è inutile che la giri sugli altri. Va bene, dai, noi dobbiamo un attimo andare al traffico, ma prima vogliamo salutare il funambolo di oggi, perché il funambolo di oggi intanto l'abbiamo sbrandato, perché l'abbiamo chiamato negli Stati Uniti d'America. È Giovanni Corrado che è con noi. Giovanni Corrado, buongiorno, anzi buonanotte. Che ore sono, Corrado? Buonanotte, grazie a tutti, grazie di avermi sul programma. Qua sono le 4 del mattino. Le 4 del mattino. Alzato, ma lo faccio per voi. Lo e fa adesso per c'è noi, l'intervista da Marzullo, infatti. No, è straordinario, lo fa per noi. Allora, Giovanni Corrado, dopo il traffico, 20 anni, stagista alla Casa Bianca, quindi ci racconterà tutto di Donald Trump, ci racconterà se sta per scoppiare la guerra con la Nord. Poi adesso ha lavorato anche con Marco Rubio, candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Insomma, una persona che ha 20 anni, italiana, è lì nel cuore del potere americano. E nel frattempo, fatti tutto. Un caffè, Corrado. Va bene. Bene, esatto. Un minuto e siamo da Giovanni Corrado. I funamboli. Allora, ringraziamo tantissimo papà Oscar Giannino che è venuto a farci questa improvvisata. Ah, sì. E adesso torniamo da Giovanni Corrado alle ore 4 di notte. Ma Giovanni Corrado, Giovanni, tanto sei abituato lì alla Casa Bianca e dove non sei più, hai fatto lo stage, si lavora 26 ore su 24, credo, no? No, lavoriamo più 32 su 24, però a parte gli scherzi si lavora parecchio, è abituale. Stagista con che qualifica? Laureato in cosa? No, io sono stato uno stagista studente, io mi laureo a dicembre del 2018 con una doppia laurea in governo e pubblica amministrazione. Ma lì negli Stati Uniti o in Italia? Sì, no, qui negli Stati Uniti alla Franklin Marshall College, nella Pennsylvania. Bello, insomma, quindi anche una persona che ha trovato la sua strada all'estero. Come si arriva alla Casa Bianca? Voglio dire, è facile? Si fa una richiesta? Cioè, spiegaci un po'. No, diciamo, facile non lo descriverei, però come si arriva? Io non avevo nessuna speranza di entrare, ci sono state più di 7.000 richieste d'ammissione. Diciamo c'erano solo 4 posti nell'ufficio stampa dove ho lavorato io per 4 mesi. C'è una richiesta. Come una richiesta hai fatto? Allora, io mi è scaturita questa passione per la politica qui negli Stati Uniti, ho detto perché no, ci provo, e ho fatto la richiesta di ammissione online, che è una richiesta piuttosto lunga, dove diciamo dobbiamo scrivere un memorandum a una persona che lavora lì nella Casa Bianca e anche rispondere a determinate domande e dare tutta la nostra informazione personale. Poi mi hanno Ma che genere di domande? Anche di cultura generale, per esempio, si parla, cioè domande politiche nello specifico, oppure? No, sono più domande per capire com'è la persona, sono più domande okay. per capire cosa diresti tu se fossi davanti, diciamo, a una persona di rilievo nella Casa Bianca, come lavoreresti. Cioè la tua attitudine a fare quel mestiere. Esattamente, sì, sono domande completamente attitudinali e anche con il memorandum, diciamo, di conoscenza politica. Cioè, per esempio, cosa diresti tu se fossi davanti a Trump, un presidente degli Stati Uniti? Come ci si comporta? No, non esattamente come ci si comporta, però, diciamo, una domanda era se fossi davanti a un capo, il chief of staff, diciamo, il capo di tutti, sì. di tutti gli impiegati governativi della Casa Bianca, cosa gli chiederesti e quali sarebbero le tue domande da fare, diciamo, cose così attitudinali per capire come uno interagirebbe. È interessante capire come sei riuscito a conquistare uno di quei 4 posti su 7.000 richieste, cioè perché hanno scelto te? Sì, molto interessante, guarda, non lo so tutt'oggi, ti dico che non ne ho la minima idea, io non pensavo assolutamente di entrare, però dopo che mi hanno risposto alle richieste della missione ho fatto 3 interviste diverse, con 3 persone diverse, e non lo so, si vede che gli piaceva il mio accento italiano. Vabbè, insomma, qualche qualità l'avrei avuta. Un che di esotico, però sarei anche stato bravo, ma tu avevi già lavorato con Marco Rubio invece? all'ufficio immigrazione? Sì, io ho lavorato con Marco Rubi, anche con un'altra rappresentante al congresso americano, durante l'estate prima, diciamo l'estate dopo il mio primo anno di università, dove ho avuto l'opportunità di essere l'assistente personale della consigliera per affari internazionali di Marco Rubio. Quindi mi sono già, diciamo, bagnato i piedi su in ambito politico, e poi diciamo anche questo ha, secondo me, giocato un ruolo nella mia missione a Casabianca. Beh, ma insomma, direi che la carriera a 20 anni è già bella lanciata. Ma raccontaci un po': hai avuto l'occasione di incrociare Donald Trump? Oppure, no, scusami, Ale, qui c'è il simpatico aneddoto di Marco Rubio, che vedo che l'ha incontrato e gli ha detto: Giovanni, che ci fai qui? Tu sei entrato alla Casa Bianca e io no, perché alla fine lui non c'è entrato. È stata una cosa particolare. Sicuramente il momento più bello della mia esperienza alla Casa Bianca, dove io ero. Stavo semplicemente camminando su una scalinata della Casa Bianca e sento una voce dietro di me chiamarmi e dire: Giovanni, cosa ci fai qua? E mi sono girato indietro, senatore Rubio. Sì. E invece Trump, hai avuto modo di incrociarlo? Cioè, c'è una presentazione dello staff? Sì? Beh, io lavoravo a un corridoio di distanza, quindi ci sono state comunque occasioni di vederlo e di scambiarci le chiacchiere, ma il momento in cui abbiamo parlato di più è stato nell'incontro con gli altri saggisti. Abbiamo parlato per 5-10 minuti di un po' d'Italia, un po' da dove venivo, di cosa stavo facendo e di come mi trovavo. Come ti è sembrato? Ma pettinato. Guarda, a livello personale meglio di te, è una sicuro. Persona è una stata scusa. Veramente una persona piacevole a livello personale, incredibilmente pronta ad ascoltarti, incredibilmente pronta a conoscerti, anche se lui è il presidente degli Stati Uniti e io sono uno stagista arrivato negli Stati Uniti da 3 anni e sorprendentemente interessato. No, ma tra l'altro vediamo Giovanni Corrado, so che nei progetti c'è fondare una compagnia, insomma fare una fellowship con l'ONU e soprattutto, questa è la vera novità, ci ha detto: sono sicuro, certo te la dovrai meritare immagino, ma sono sicuro che mi candideranno i repubblicani, perché mi sembra di capire tu sei repubblicano, nel 2022 al congresso. Accidenti, ma insomma, che programmi... Addirittura sicuro sei? Sei ben lanciato. Allora, voglio dire, no? Allora, innanzitutto precisiamo che chiunque può essere un candidato al congresso. Chiaro. Qualunque cittadino americano a compiere 18 anni e residente negli Stati Uniti. Come in Italia candidarsi alla Camera. Diciamo che abbiamo avuto delle discussioni molto produttive con il Partito Repubblicano della Florida e c'è un progetto, diciamo, per candidarmi nel 2022 al congresso della Florida. Senti, ma la politica americana, come la vedi tu? È un po' un nido di serpenti, come a volte viene descritta, oppure... House of Cards, dai, su! Ma tu che la vivi dall'interno? La politica da dentro è molto diversa da quello che vedi sicuramente nei giornali. Però, guarda, è sicuramente un ambito difficile, è sicuramente una professione che è spietata, e non esito a definirla così. È molto diversa da quella italiana, mi appassiona notevolmente ma spietata in che senso? Cioè, spietata perché è un tritacarne? Bisogna avere un po' di pelo sullo stomaco, un po' di... No, è spietata come secondo me anche la politica è spietata dappertutto, è un ambiente... Beh, la politica in generale, sì. Sì, devi essere deciso, devi avere le idee chiare, andare avanti per la tua strada, ma allo stesso tempo essere capace di arrivare a compromessi e avere un buon dialogo con i cittadini e anche con altri politici. Io tra l'altro non seguo molto House of Cards, non sono molto ferrato sul tema, no niente, mi fa anche abbastanza davvero? Schifo, ne ho visto 2 puntate, non mi piaceva. Però sto vedendo molto Designated Survivor, non so se lo conosci Giovanni, ma insomma, anche questa è una fiction, è una serie molto molto ambientata, visto non che il protagonista è il presidente degli Stati Uniti d'America, Kiefer Sutherland, te la Oh, ma bravo, caro. Giovanni, ma fuori. Tu che vuoi fare politica, hai ancora qualche ideale, diciamo? Io sono sicuramente pieno di ideali, ma ti garantisco che gli ideali non mutano anche quando tu continui a far carriera politica. Quello che cambia è come gli esponi alla gente, come la gente ti vede a te come politico. Sicuramente come giovane e anche come qualcuno che ci tiene a fare una carriera politica ho molti ideali e sono ben decisi, sono determinato. Intendi la capacità di avere uno storytelling sufficientemente convincente e pieno di fake news da convincere la gente eccoli, a votarti. Attenzione, arriva la domanda chiave da un ascoltatore. Ci arriva, sono le ore 4:24 a Washington DC. Caro Giovanni Corrado, la domanda di un ascoltatore è: attenzione perché ti giochi la carriera e forse la candidatura, ma Melania Trump come è? Bella domanda. Pensavo Trump, bella, ho finito. Ho avuto l'opportunità, bella sì sicuramente, ma ho avuto l'opportunità di vederla e conoscerla ed è veramente una persona incredibile, incredibilmente affettuosa, una persona incredibilmente coinvolta in tutto quello che succede nella Casa Vabbè, Bianca. Su incredibilmente affettuosa, fermati, no, io invece sono incuriosito dalla questione. No, ragazzi, non cominciamo, no, per favore. Infatti, abbiamo un candidato in pectore al congresso alla Florida nel 2022. Non candidato bruciamo... in pectore, vorrei bruciare un attimo la tua candidatura no. Facendoti una domanda, tanto Trump non lo saprà mai, parliamo tra amici. Il fatto che tra i conservatori poi alla fine abbia vinto lui, abbia spiccato lui, ti ha fatto piacere oppure pensi, sempre detto in silenzio, qui di nascosto tra amici, avresti preferito un altro candidato, penso a Rubio, altri. Tipo Rubio, uno a caso. Allora, io non ho, sicuramente non ho preferenze, lui è il leader del partito che rappresenta, è il leader adesso del nostro paese. Io ero sinceramente disposto a supportare qualunque leader del mio partito che sarebbe... Sei già troppo politicamente sì, corretto, sì. Hai già parlato la diplomazia, è già pronto. Fatto. Giovanni Corrado lo vedo già al congresso. Ma anche senza elezioni, io lo metterei direttamente subito al congresso. Dai, Questa era solo la domanda per verificare se tu fossi o meno pronto ad andare, sei pronto, possiamo darti la patente. Abbiamo scherzato anche un pochino, in realtà ci fa molto piacere di averti conosciuto. Giovanni Corrado, chissà, ricordati di noi quando... magari sarei un po' quando potente sarai alla negli Casa Stati Bianca Uniti, no? No, ma Giovanni, un'ultima cosa, se dovessi tornare qui con chi ti metteresti in politica? Con nessuno. La mia risposta, ecco. Proprio chiara, oh, chiara. Beh, insomma, la politica americana è un po' diversa dalla politica italiana. Mi sembra una persona che anni fa ha fatto una scelta di studiare, di cercare un suo percorso lì. Giovanni Corrado, non fare grazie, subito l'esterofilo. Grazie davvero. No, non faccio l'esterofilo, è dato di fatto. 20 buonanotte anni, Giovanni. Buonanotte. Adesso già che sei sveglio, e sono le 4, ma come già che sei sveglio? I primi report da portare ai tuoi già referenti. Già che sei sveglio politici. Fai 24 mattino. No, assolutamente no. Bomboloni a Washington. Vatta a fa' un bomboloni. Grazie Giovanni Corrado, ovviamente. Sentiamo Giorgio, che ringraziamo, e lì da un po' il tema che ci ha accompagnato durante tutta la puntata, i figli, perché non si fanno figli. Giorgio, grazie per la pazienza, eccoci qua. Prego. Da Milano, prego. Da Milano, mi sì. Sentite? Benissimo. Sì. Benissimo. Allora, premesso che è sotto gli occhi di tutti il calo demografico negli ultimi decenni in Italia... È costante e ci sono tante motivazioni per cui non si fanno più figli in Italia o comunque se ne fanno meno, perché se ne fanno, ma molto meno rispetto al passato. Innanzitutto penso al fatto che la precarietà del posto del lavoro, quelli che come me cercano un lavoro fisso, cioè un lavoro che ti permetta di avere una base economica, chiaro, ecco, garanzie economiche. E anche per il futuro, per una casa, per un affitto. E poi anche il fatto che l'età in cui si studia è aumentata. Adesso i ragazzi studiano di più rispetto a 50-60 anni certo, fa. Sono tanti, e quindi, tanti... quindi anche questo porta a un'età più prollungata nel mettere su famiglia. Se prima a 18 anni si lavorava già da qualche anno, adesso no. A 25-26 anni si inizia a trovare la prima occupazione. Certo. E non essendo così semplice, le due motivazioni si sommano. Mm. Un'altra delle motivazioni che io ritengo sia la causa di questo calo di nascite è anche, secondo il mio parere, un aumentato numero di soggetti omosessuali, nel senso che io, premesso che non ho nulla contro l'omosessualità, ho alcuni amici, anche dei colleghi omosessuali e non c'è niente di male, al giorno d'oggi siamo nel 2017 e questa cosa a Milano non è un problema così grosso come magari altri in altri paesi che non sono l'Italia. No, ma infatti non è proprio un problema. No, esatto, sai Giorgio, che però io non so se le statistiche supportano la sua tesi, perché teoricamente, visto che ormai è abbastanza dichiarato ma chi lo è, hanno delle unioni. Ma hanno analizzato questi, cioè, avete l'Istat... dati in questione? No, l'Istat, io le dicevo l'Istat. Proprio che non lo so, bisognerebbe vedere i dati Istat al riguardo, perché... Non dicono nulla a riguardo. Cioè non c'è questa voce che probabilmente... preso in carico, però io parlo della mia esperienza, giustamente, non di quella di altri. Ma lei dice vede più omosessuali, secondo me ci sono, sono aumentati gli omosessuali e quindi gli omosessuali o forse non semplicemente hanno meno problemi a farsi vedere in giro. Ma ecco, esatto, forse non volta. È che sono aumentati, semplicemente forse sono più visibili, nel senso che abbiamo fatto passi in avanti per cui non è più uno stigma e quindi... Quindi lui dice ci sono meno famiglie di copertura in cui facevano i bambini ugualmente perché non potevano vivere alla luce del sole. È un aspetto che non abbiamo tenuto in considerazione neanche l'Istat. Però facciamo presente all'Istat che possono considerare quest'altra voce. Esatto. Volendo, la amici voce, dell'Istat. Non lo so, la voce non facciamo figli perché omosessuali. Grazie Giorgio da Milano, andiamo a sentire la borsa e poi rientriamo. I funamboli. Però donne che non fanno i figli perché non vogliono rinunciare allo shopping, alla palestra, i figli sono sacrifici non soltanto nella vita lavorativa. Rinunce, rinunce e rinunce. Don Manera, Don Bonetti si canta. No, ma questa è una scelta, l'abbiamo detto. Il 2,8% certo. Dice l'Istat di donne scelgono, ed è una scelta libera. In proporzione quante siano quelle che per lo shopping e per andare in palestra non fanno i figli rispetto alle altre problematiche, insomma, credo che sia sono una minoranza c'è tutto, esigua. C'è di tutto. Quando si tratta questo tema, ripeto, non possiamo raccogliere le 10.000 motivazioni diverse per cui non si fanno figli. Ma poi per una volta fammi essere dalla tua, ognuno è libero di fare quello che gli pare, senza avere nemmeno più lo stigma sociale. Una donna se non li vuole fare i figli non li fa e non è obbligata in nessun senso, né c'è più quella retaggio del fallimento identitario se una donna non mette se al mondo figli. Se invece li fa bisogna rinunciare a molte allora... cose nella vita, sacrificarsi e rinunciare. Senti che sacrificarsi suona come critico MDP. Critico MDP. Molti sono tornati a far bollire i pannolini, tra l'altro, per risparmiare anche bollire. Un po'. Bollire. Avete visto che c'è il business di questa cosa del riciclaggio dei... Mamma mia, ragazzi. Sì, tu non bolli più i pannolini? No, io non li bollo più perché i miei figli sono fuori dall'età dei pannolini. Ma ma è così come hobby. Non farmi dire nulla, no, perché qualsiasi cosa dici adesso ti attaccano i naturalisti, gli ecologisti, non lo so. Perché tu eri già pronto a iniziare la polemica sul bollire i pannolini. Ma fai quello che vuoi, se vuoi bollirli e perdere. Io mi compro, se posso, la comodità. Non la so comodità. Quanto sia il risparmio in questa bollitura di pannolini. Guarda, non so. I pannolini costano. Io oggi vado a farmi un bollito di pannolini. Mi è venuta voglia di un bollito di pannolini. Siamo come al solito degenerati da un discorso che per alcuni è serissimo. Bene, bene. E allora è il momento di fare i furbi. Defurbizziamoci. Signori, abbiamo bisogno di voi, l'esercito dei furbi, e so che è molto corposo in Italia. Siamo l'esercito dei furbi. Scriveteci al 349-238-6666 oppure funamboli@radio24.it per candidarsi a essere defurbizzati. Per candidarsi in politica, perché altrimenti senza un minimo di curriculum, prima di passare di qui, non avete nessuna chance di poter entrare in politica. Noi vi sbianchiamo la coscienza e poi potete candidarvi. Esatto. Come farà Riccardo? Buongiorno Riccardo, eccoci. Riccardo. Riccardo, quando ha sentito noi, la parola politica, noi, se Riccardo, l'è data. Riccardo, siamo qua. Lei, Riccardo, dove è? Adesso lo richiamiamo. Intanto sentiamo un ascoltatore, Antonio da Napoli. Che ci vuole dire, Antonio? Buongiorno. Ciao, buongiorno. Sono Antonio da Napoli, ho 47 anni. Ottimo. A proposito del problema dei figli che si fanno di meno, è chiaro che vado un po' controcorrente, nel senso che io penso che almeno da tre generazioni abbiamo una propensione al sacrificio un po' differente da quello che era prima. È anche una cosa che è stata detta, ecco, però il cugino di Manera, lei è il cugino di Manera, rinuncia. No, le faccio un esempio banalissimo. Mia mamma è nata il 22 giugno del 44, quindi in Sicilia, quindi le condizioni diciamo, economiche del dopoguerra, delle cose, però si facevano lo stesso. Se lei va a vedere molta gente che decide di non far figli o di rimandarli per motivi prettamente economici, e magari hanno un telefonino da 800 euro in mano, e magari fanno tante altre cose a casa. Quindi lei dice a volte si vuole una sicurezza economica che sua mamma per esempio non aveva, eppure pure l'ha fatti lo stesso. Eccessivo. Sì, c'è anche da dire che però una volta i figli erano una risorsa, nel senso che venivano utilizzati per il lavoro anche in agricoltura, che adesso c'è molto meno, quindi venivano visti proprio come un modo per avere un sostegno in casa. Adesso non è quasi, non è più, così. Comunque ti piace, effettivamente rinunce. L'etimologia della parola proletario voi mi insegnate. È il momento edotti, della cultura. Edotti linguisti che siete nello studio di Milano, che era colui che era ricco unicamente della sua prole. C'è una quindi base, effettivamente. Una base, metti una base, Pilar, sul momento della cultura. Scusa, puoi sparare la mitragliata. Vabbè, dai, così non si può fare. Io non posso lavorare così. Qualcosa. Va bene, abbiamo recuperato Riccardo, il nostro furbo. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Ecco, si era già dato, visto. E che ha combinato Riccardo quando lustri fa ne ha combinata qualcuna? Allora, è una furbizia in effetti che risale a lustri fa. Strano anche questo. Io ho 58 anni, quando ero ragazzino sono sempre stato tifoso del Milan. Bene. Bravo. E praticamente noi avevamo questo problema, non avevamo soldi, dovevamo andare allo stadio. Quindi dovevamo, cosa... adesso dovevamo, Riccardo, no, era un piacere, dovevamo, non lo imponeva il medico, però volevate. No, faceva piacere andare allo stadio, allora non avevamo soldi, non avevamo i biglietti, quindi questa furbizia qui mi è venuta in mente, diciamo, l'abbiamo iniziato ad applicare in occasione di un derby, Milan-Inter perso tra l'altro, e una volta era più facile entrare allo stadio, non c'erano i tornelli, non c'erano i lettori di codice a barre, eccetera. Quindi noi cosa facevamo? Quando eravamo in prossimità dell'entrata del cancello, raccoglievamo tutti i pezzettini di biglietti che venivano strappati per terra. Pezzi di biglietti? Pezzettini di biglietti. Cioè faceva... sì, perché i biglietti avevano alla fine due pezzi che si staccavano. Sì, chiaro, il pezzo finale, poi i due controlli. Ecco. I due controlli. Quindi noi cosa facevamo? Ci munivamo di scotch, raccoglievamo questi pezzettini di biglietti che venivano gettati per terra, era facile raccogliere. Sì, però il cellulare non si sente una mazza, Riccardo. Tienilo vicino alla bocca, bene. Sì, sono qua. Sì? Quindi noi li raccoglievamo con lo scotch, attaccavamo 5-6 di questi pezzettini nella parte inferiore, arrivavamo davanti al bigliettaio, diciamo, a quello che stava i biglietti. E la cosa più bella era la faccia che faceva quando si accorgeva che praticamente non avevamo in mano. Perché lo scotch non si rompe, lo scotch, appunto. No. Quindi il segreto era praticamente arrivare lì davanti, la prima tirata, diciamo, il biglietto non veniva via, la seconda tirata, quando lui cercava di strapparlo più forte, noi glielo mollavamo in mano e correvamo dentro. Certo, ma è chiaro, perché altrimenti, ma e vi correvano dietro oppure ormai? Ma qualcuno cercava di correre, ma se ci correvano dietro poi non riuscivano più. Io ricordo, era un periodo in cui c'erano anche lo scavalcamento dei cancelli, c'è stato quando io ero piccolo, vedevi proprio la gente che scavalcava i cancelli. Ma quindi lei faceva tutto questo per andare a vedere giocare Calloni negli anni 70, esatto, però esatto. Anche Gianni Rivera, voglio dire, Calloni, esattamente. Benetti. Calloni era un mito. Calloni, Romeo, diciamo, Benetti, Calloni, Tosetto, c'era Calloni, Veronica era un centravanti del Milan famoso per sbagliare molti gol. Era il momento del neorealismo della letteratura. Non ero nata, mi annoio. Allora, quindi aspetta che sto segnando la falsificazione, poi fuga da pubblico ufficiale, facciamo un nuovo fuga. Esattamente, praticamente si correva resistenza a pubblico ufficiale, si correva sulle rampe, si andava sui popolari e falsario. Perché non so se sei stato informato che noi facciamo un ripescaggio alla fine dell'anno per mandare in galera uno dei defurbizzati dell'anno. Sono in prescrizione, sono adesso bisogna vedere che succede anche con la prescrizione, si sta rivedendo la prescrizione. I reati sono tanti, perché falsificazione, falsare, truffa. Hai delle chance, voglio rassicurarti, sì. Riccardo. Comunque, potresti... c'è di peggio, Riccardo, vogliamo tranquillizzarti, c'è stato di peggio però ormai possiamo fare una piccola statistica, e molti dei furbi sono legati alla falsificazione di biglietti in un modo o nell'altro. Io però mi pongo uno scrupolo, Leonardo: se il fatto che qualcuno abbia già denunciato, si sia autodenunciato per questo reato, spinga gli altri a confessare solo questo. Forse sì. Perché... comunque noi, Riccardo, intanto ti diamo la patente che diamo a tutti i nostri ascoltatori che si confessano defurbizzato. E eccolo. è così. Intanto ci teniamo il numero, lo forniamo all'agenzia. No, scherzo, scherzo, dai Riccardo, si sta scherzando. In realtà noi lavoriamo per l'agenzia. Lavoriamo per le forze dell'ordine. Chiaro. No, no, no, scriveteci, dai, funamboli@radio24.it, l'avete capito il meccanismo. Ci raccontate una furbizia. Furbizia, e mi è venuta sta roba qua. Ho perso un canino. Dai, andiamo al traffico. Intanto andiamo al traffico. I funamboli. Oh, make me over. Eccoci qui. Sta per finire anche oggi la puntata dei funamboli, ma siamo in diretta ancora qualche minuto, perché Veronica è venuta a ritrovarci il tuo grande ammiratore Battista da Cavaglione. La Gentile no, deve rinunciare a qualcosa, Gentile, se vuoi fare i figli, no? Non puoi pretendere anche da portare avanti la carriera e i giornali, non si può. La donna anche deve rinunciare a queste cose, ma no? Che è più cose degli uomini. Devi tornare anche a cucinare le cose a casa e occuparti dei pannolini dei figli. Ah, capisci, ma io Gentile? Non so cucinare. Ma comincia, e la donna è nata per cucinare, capisci? Tutte altre cose, e cose aggiunte che non è nella vera natura della femmina, no? Finalmente siamo caduti. Ci abbiamo la sigla, che così lo sistemiamo. Siamo arrivati al punto. L'angolo di che? L'angolo del populista! Bella sta sigla! Non è populista, Mina! E che bisogna parlare dei problemi veri della gente, che i politici, e dice che i ristoranti sono pieni, è vero? I ristoranti è pieni, ma è pieni dei politici che mangia, questa è la verità, capisci, Mina? Neanche io, Veronica, sarei arrivata. Eh no, ma infatti la sigla te l'ha rubata, volevo dirti. No, poi è sottoscritto, non si fida dei politici, perché Renzi ha cominciato la carriera da Mai Buongiorno, Berlusconi cantava sulle navi, Grillo faceva il comico, questi qui non deve governare l'Italia, deve mettere in piedi un varietà, capisci? Che questa è tutti nati da quella storia, no? L'unico che non fa spettacoli è anche Salvini, che adesso non beve più l'acqua del Po perché vuol prendere voti in tutta Italia. Tra un po' comincia a bere l'acqua dello Stretto di Messina, no? Così prende voti anche in Sicilia, Salvini, capisci, Mina? Chi lo sa? E intanto l'Italia è piena di extracomunitari. E i negri di colore nero. Neri. I negri stanno portando via tutto agli italiani, anche i giorni della settimana. Ha cominciato con i Black Friday e adesso porta via anche tutti gli altri giorni, no? No, ma quello non comincia dal venerdì nero, poi ti toglie il giovedì e il mercoledì, capisci, Mina? Ma è un'altra cosa. No, non sono d'accordo col Black Friday. In Italia, settimana italiana, non quella del Black Friday. Ma non è giusto, anche io sono d'accordo. Ma non è nero. Agli italiani resterà solo il giorno di San Valentino. Perché? Perché resta solo? Perché Valentino, lo stilista, è difeso dalla lobby dei gays. E non gay è quel Valentino che hai la lobby. Allora diamo il Black Friday ai stranieri e gli altri giorni ai gays, no? Io non ho niente contro i gay, ma se Dio voleva che nel mondo c'erano i gay, nel Partito Terrestre non metteva Adamo ed Eva, metteva Adamo e Alfonso Signorini, capisci? E intanto la città è piena di negri, zingari, che entrano nelle case a rubare, i zingari si travestono da Babbo Natale, entrano nei balconi. Ma come faccio a sapere se il pupazzo è ladro? Allora io, per non sbagliare, vado in giro con la doppietta, sparo a tutti i Babbo Natale che vedo. Ma Battista, ma no, sono anni che faccio strage ai pupazzi, capisci? Se vogliamo i delinquenti, ce ne sono già tanti italiani, senza che dobbiamo prendere delinquenti extracomunitari. Questo è vero, questo è vero. I ladri stranieri, eccolo. I ladri stranieri portano via lavoro ai ladri italiani. Allora difendiamo i delinquenti italiani. Viva la mafia, viva la camorra, viva la No, mafia camorra, no. Proteggiamo Battista. I marchi di successo italiani. Battista, stiamo Battista. Un po'. Battista, Milan è con lei, però su questo si dissocia, perché la società sta degenerando in giro, è pieno di travestiti, transessuali, transgente. Che ormai prima di fare transgente è quel che ha transgente. È uno, ma sembra tanta gente, no? Perché non capisci? Ormai prima di fare l'amore è meglio avere due preservativi, perché può sempre spuntare un pisello a sorpresa, capisci, Mina? Vabbè, ma perché lei frequenta? Cioè, se lei non frequenta, ne mette uno lui, uno l'altro, e poi vedo, ma magari vanno al cinema. Io mi difendo, vado in giro con mia moglie, anche se ormai mia moglie ha la cellulite dappertutto, ha la cellulite anche su comodino. Ormai quando mia moglie va dall'estetista, poi l'estetista deve andare dal psicologo. Però almeno si crea un indotto del lavoro. Mia moglie con la sua cellulite è l'unica che fa crescere il lavoro in Italia. Parola di Battista da Cavaglione Veronese. Direi che forse grazie. L'ultimo concetto è l'unico che posso capire, ecco. Ma secondo me, guarda, Ale, che Battista è diventato veramente il tuo guru, il tuo mentore spirituale. No, no, questo no, però la sigla no, è sovrapposta, eccetto la mafia, l'andrangheta su cui ti dissoci per ovvie ed evidenti ragioni. Difendiamo ma i delinquenti sei... italiani. Ma lui tendenzialmente è con Battista, sì sì. Io? Io? Sì, ce l'hai infatti con me? Una predilezione per questo personaggio c'è sempre stato. Beh, insomma, è un po' uno spaccato d'Italia il nostro Battista. Buongiorno, comunque, torni pure a Camion Veronese. Ma guardi, torno solo quando trovo che non difendete più tutti quei che stanno rovinando l'Italia. Ecco. Battista, io vado a cucinare, poi la posso invitare a pranzo? Ma fare anche un po' dei pannolini bolliti, no? Che vengo. Faccio un po' di pannolini bolliti. Dai, ci sta Alberto da Vicenza. Buongiorno, Alberto. Lo conosceva Battista, Camion Veronese. No, vabbè, niente, non c'entra niente. Direi che intanto buongiorno a tutti, fantastica quella del Black Friday, veramente. Black Friday. Era notevole, grande, sì. Grande maniera. Alberto, io, prego. Io penso si senta dall'accento, chiamo comunque da una zona fortunata che è quella del Veneto, per cui mi rendo conto che magari non è uno spaccato completamente rappresentativo dell'Italia, però devo dire che per quanto riguarda il discorso dei figli ho veramente tanti amici e persone che conosco, insomma, che tra i comunque fascia 35-40 anni, pur essendo coppie conviventi con il lavoro a posto e tutto quanto, comunque poi alla fine, come diceva sempre Manera, pur di non fare la rinuncia, perché è bello viaggiare, perché siamo comunque scelgono così. Per cui non è solo un discorso anche della donna come è anche una scelta, prima, ma è anche proprio, una scelta. Proprio di coppia, devo dire tanti rinunciare alle belle cose. No, Alberto, è per concludere perché altrimenti sforiamo. Va bene, no, ma è chiaro che ci sta anche questo. Veronica, Leonardo, ci troviamo domani. Oh, a che ora ci vediamo? Ci vediamo via telecamera alle 9. Puntuale. Perfetto, va bene. Cercherò di esserci alle 9.45 io. Alle 9 sono qui. Ho capito, tu arrivi sempre quando ti pare. Meno male che ero io la romana. Quando sei in ritardo, corri sulle scale mobili e arrivi, dai.